Friuli nel mondo, 137esima trasmissione dedicata agli emigrati. Friuli d'altri tempi. Siamo lieti di offrirvi, cari amici radioascoltatori, alcuni componimenti friulani di valenti autori di ieri e di oggi, che con linguaggio pieno di humor presentano un quadro vivo e persuasivo di vita friulana di un tempo, inserendo nella narrativa e nella poesia di casa nostra figure e motivi pieni di umanità e di semplicità. Di Pietro Michelini trasmettiamo una filastrocca echeggiante il suono delle campane del suo borgo alla vigilia della sagra. Di Beppo Rupil, educatore e psicologo, due racconti di autentica vita umile e patriarcale della stupenda conca pesarina. Di Don Giuseppe Marchetti, un quadretto di un incallito Beone. E di Riedo Puppo, insegnante, autore di Parum Pel e collaboratore di Radio Trieste nella rubrica culturale La Cortesele, un componimento che magistralmente descrive alcune caratteristiche e figure di vecchi contadini di fine secolo. La dizione, nelle varie parlate del Friuli, è di Ottavio Valerio. Il Ciampanon di Adornian, di Pieri Corvà. Sentì, Davon, la mecianzon sul timpeton dal campanon. Cin si sfantaz e son sul tor, c'è brio, c'è braz, c'è da si a tor. Din don es glin, din dan es glen, chiar el sglinghin calmettan ben la geng el son d'un col din quin, de confusion dal din dal don. El sagrestan, el capelan, el paesan, c'è gust che han. Es glin don don, es glen den den, c'è chiacaron el campanon, astai da urcul chiafas las. Us vegnin fur dal sol engaz, dal fond dal curi passaraz. Sior Pieri e lui, non scrivi al plui, din don par c'è, din dan par cui, e duce san, din don din dan, covin el gran strolic furlan. Ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, quant che non de, quant che non de, non din non dan, non din non dan, che cence gran, cence levan, no si fa span, e cence pan si mur di fan, pam pam pam pam pal graduan, pam pam pam pam pal graduan. Ma sì la fe che par plasè, parce parce conturba smè, un treseman col vif lontan, da qualche an, dai quel dal plan, dal cil nostran, no la sotman, un scherz pal gran strolic furlan, gno don, gno dan, gno don, gno dan, e in conclusion, din don, coce melon, ai mestagion, un monce an al diriwe, ol don gol dan di un ciavvalzan, a miti pengo di un zorut, anche l'inzen o di un velen, parce parce conturba smè, le lor impen, le lor dove di far riplen, ben ben ben ben, perché li brut calva pardut. Ma in tan don don, ma in tan dan dan, el biel el bon al ven doman, doman doman, o c'è funzion, c'è precision, c'è confusion, doman doman, balle balon, gialle chiapon, e indigestion, en tan din don, en tan din dan, cul ban ducel in man, cul ban ducel, cul ban ducel in man. La Rosseon davan di là dormì, fevelà di prati in chiarnie, di Beppo Rupil. Oe, bisodeaz, vignisa si uno a dilas Rosseon, su besclez busarons, in cenoclaisi qui da pedisi a davor di me. Angelus Dei, custo mei, metimi sul comiso in patate sul perno, et ogio nella lumine in custodia iumichi, in reget in giberna, amen. Mari! Mari, hai di fa la roia! Nasta là di forca, veniu la ploia, e tu, cacu, rassa di chian, sta fermo con che man! Save, regina, madre, misericordia, vita, duceccia, specie nostra, save! Mari, Mari, lubecca stunca la zoccola! Preave, preave, maciulata, e tira giù che cotola! A te cramamus, oseli, fili deve, a te spiramus, gente, cezzoflente, si immacula! Via, mo via, non sta a dormì, tu, cacu, ten su che il chiaf, Maria! Vacarum vale a gioergo vocata, vocata mostra, oculo tuo scoverto, o castendo, o cacremo, capia, e Jesus vitus frutus o costende, co cacremo, capia, o dolcissima virgola Maria. E begara, begara, tuttoni, topari, quanti al venti schia sarà ben laga dal stomidve. Gnara me, gnara te, varacata. Tasiat, tasiat, cun che bottiata. Ad ara mirtute canta rosta, amen. Mario, iai sen, iai sen. Cacu, quarto di furto, fradi, e tu, Maria, mezzo il for che il formadi. L'aida spa tutti a dormire, la sai chi chiusco fons, chi è d'impidi aiuta l'ons. Mari, alle scur, scur. Toi su la lum di ping e da spola sai la sustialin. Buonanotte, pomari. Buonanotte, buonanotte. Farias lo sen da Santa Cruz davanti alla sot la pleta. E tu, Maria, sta pinquieta per non fruare la sbleons. L'aidmo, l'aidmo con Dio con la sbenedizions. Il da profundis durante un funeral. Fevelà di prati in carne, di Beppo Rupil. Ciò, Tina, va sulla lindamo da brava e tira denti che i panciz che i saranno sui az. Può farlo plasia di metti in tun sot l'uculut a di che frutta e quive, che sarà tutta bagnata. Da sposenta la sun che il bredal cu la busa tan bombenta al miec, se no, sa fa sintoriave. Su da brasmo, fis. Intant cu la inte al funeral di Biadnart, nua disingunda profundis. Fait lusenc da Santa Cruasmo. In nomine Patris, Filio, Spirito, Insanti. O con quale man l'ha fatto tupo? Con questa chi si fa la cruas? N'ha già insegnato, Mari. Oh, brava. Cusimo, torni a di. In nomine Patris, Filio, Spirito, Insanti. Amen. Bras, bras, i via sfatte del bon ben questa volta. Tasmo, tasmo buina. Cuda spoggi darai un cimi di petaco ta sod la bulifa. Da profundi si incolmavite, domine, domine soldi in borsa mea. E c'è fasi che frutta, cui dio su pal nas, sociata, netta gita cotoluta vena e creanza fa che srubas. Netta la tu sona, ca tua spin udizi e ca tu sia spin valenda dia. Impiantarla tarundente e in borsa un purgazioni sme. Purcitaz, sociaz, mi fai spropi da nave, su tential, lui diauluzio tential, n'avesa paura con lu signor si chiastea. Sine patate salvadias, domine, domine, che sei ostinebit. Ma Gesù Maria, c'è udurs, c'è pucciata. Na su tempin di guardia ve bacedata, nence, si credes di vigni una siora. Capo di te, prepuziazzo d'este, proprio lese tua, si ostinite, domine. Ostinite anima mea in verbo Deo, spurgavit anima mea sempre in domino. E ma esa l'untuf, chio, tina, chiala che frutta i qui ve cada via insociati in tor. Va togli la scova cere, la scova di bedoia, nete la bescletta. Ma su svelta, da toi tati su alavio. Ma c'è visa mangiato io che hai fiesta. Sono i fasoi a pestadizza di una sera che sono fas che stas rubas. Ma che sta puccia a so propri di ciusi di salmuediave. A custosa di mattina un steco di notte sperati osteri in domino. Biadazza c'è plena che ivade, se la fate in torria, anna sta muovici con la siambutas, tutti in socia sduta. Gesù Maria, ci hai mai fatta tinisu io. Ciottina, quarta campuccia di cinise netta che frutta su bescletta, mo. Cacca benedetta, cacca benedetta, sta ferma con che manuta, sta ferma. Mattina, la tua viosca società a man. Mettiu cor, hai cacca bia lei buina cheve, e c'è giambara di crima, vai anche ad ogni, cumo. Animo in davant, ma cumo proprio te in mezzo ti era il biat muart, e noi componin una raganizza. Ti era mota, a partan bon, tai chiamse, tai prats, ma la nota che il sagrat, muarts mia di cor, l'usor, la cartufola sei fasoi, e son in cialuar sot la tiera, ma quanca torna la primavera, volontera e torna for. Ma i nostri smarts, ma i pinga e torna, a fa svidia in che sbrut mont, nence si va in den plana gorna, o se l'utoral si fa staron. Ma come i fluor scuda sottiera, ai salta for pargiol di luz, così i smarts nostri, alla pas vera, saran nel premi dal cil metù. Capo di omini miseri in corde, poi in losa buli ordensi, e tu pesere di metosten in onibus, sine patate buelus e reliquia interna di donna e tomino la perpetua la luce ai coi e recrese in piazza amen. Na sai nencia c'è chi disio vade, mi fai slator la cucugia, i suoi propri ciocca da questa puzza, non mi respin luciav. Signor benedet perdonaimi se hai preat malamenti, prearai besola da spove. Na post propit pin, mi ven lu volta dez. Portaimi un pur di sicci un got di aga che mi sia foi propit. Ha dato già mia mimo questa, Maria Santissima perdonaimi, suprei perdonaimi. Il Chiochele di Giuseppe Marchetti. Chialai lulì, c'è ses di Cristian. Sigur che la metuz che isiso siet miec litros di nostran biel già sotet, con qualche tai di Puglie o Merecan. Fracati il chiapelazzo un tuneorele, all'alce il got riman, cu la mandrete, poco la lenghe, all'è che la moschette tanche un vigiel con la sueidad la sele. La che la rute bionde, malmadure e murbinose e plene di ligrie, si divertisse un poco a chiolluvie, e lui si ten in bon e alla bravure. Al tire fur la pipe de sacchete, al cir d'impiale, ma non rive ad ore. Si scotte i dez, la mande la malore, allieve in pis e i colle la diaghete. Qualche avventor si ferme lì a Chialalu. L'ustir al fa il condice che i ven, e al pense che s'allas al sares ben. Po e ven la so cristiane a predelalu. Beazi viei, di Riedo Pupo. Beazi viei, che i che no sance che ie la tape a cronometro, e di tutti gli speraulis tecnicis di giù, a cognoso in nome fuori il mi chiamo, che i che sabevi in spume, non la tegni neanche tal stomi. Unedì Hermis Munin alveve un faganel malato, al devi bevuto un incastri. Un faganel che al dismuoveve tutto il borsa, stava ben. Hermis al mande miglio guarazza viodilu, miglio al vacchia lalu, po al tornecà. E allora, disse all'Hermis, c'è ti se meglio. Mal, mal, disse al miglio, non mi è neanche cognosu. Miglio guarazza lo vesa mens, nomo, alle quel che la dite che cumò si scugne taglia tutto il formento a macchine, parce che non son sesulis. O ieri in subito dopo desvotazioni dal 40 volte. E Iacundos, lo veso cognosu, quel che al fo clamata rispondi ad una eccitazione a 85 anni par via di un debit di 15 francs. Il giudice conciliator impone di parai il debit. E Iacun, o pai sì, signor giudice, o pai, se il signor mi dà la grazia di chiata lavoro, o pai sì. Quando al morì, al clamà il plevan e al fase teste sosmans. Signor plevan, o vareis voi di lasà 500 francs per glesie e 1000 pal benefici. Bravo, Iacu, bravo, a spese al plevan. Un galantom di viv e un galantom in muar. E in dula saresino che sbes. Alle che il copensi anche io, monsieur plevan, a rispinde Iacu. Une carogne di viv e une carogne di muar, al zontal plevan. Ma in che volte carogne al vole di ninin, agli era dutto un altro mondo. Pensai che il vichiari merlus, dal vignive iù di Sante Margarite come un sfulmin in biciclette, al correve s'aveso parce, parce cagliere sicurato sulla vite e al tentava di colà parce a passi alt. In che volte nessun robave, a cirimi di guadagnasi la vite onestamente, ue invece alle un onore a farsi mantigni. Di fat checo, alla fat cont che un contadin al manten sied di loro. Al mancul coves la soddisfazione di saper quei che sono i miei, disse al piloco, avaresin di mangiare curteve? Anzi, per dire la verità, lui alla dite sutile, e invece di mangiare, alla doprade un'altra peraule di significato quasi contrario. Ma contenti di stessi, in buine e di cur. L'unico vizi all'iere che non usavin a patisset, che anzi, doi amions di brezza une volte, doi di cheica di studavin a sed da spes, all'erin a confessarsi a feagne, par vie che là, in quei timps, all'iere un predica al pative tante di che sed anche lui, e dunque all'iere un'evore adatta, capiu. Ben, si spettaresti o altri su ne domande richieste fate? C'è vi in beveso. Proprio così, il plevan ora fate queste domande. Signor plevan, o hai il vizi di bevi, ma o be funevore, aduti gli soris, aduti il team d'alan. E c'è vi in beveso, disse il plevan. E c'è Welial, disse il princaliere Beppo. Robe di chiase fin candè, e dopo te i cantinosve, Clinton, Merecan, Nostran, anche Bacossior, baste calzedineri. C'è brut vizi coves, non saveso che il vin al pare l'ompa fil di bestie. Ben ben, oromai c'è cale alè, e par pinitinze o disares vinti rosaris. In che volte gli spinitinzi si aierin un po' chialciadutis. Il pecchiador alcede il confessionario al suo compagno, ma quanche si scambiarin il puest, Beppo non pote fa di manco il divisala mi, che alveve non tin. Dipo tin, viot che io cul bacò e merecan, o hai vinti rosaris su peschene, tu che tu tetti sbutili sti incapite un schiar, come... Tin non capì ben li parlì e alle so. Anche lui alveve nome un pecchiato. Signor plevan, o bef simpri e non soi mai plen. E c'è vi in beveso, disse il plevan. Signor plevan, sulla mesteme si può dare scrivi un evore e bon. Io ho chiuti butilis di rosazis e di faelis. A chi ret si visate speraulis dal suo amico? Al capì di colp, al ferma di bot, al sbassa il chiaf e al spietà la sglavinade di rosari. Il confessore a sclarì la voce o al sentenziar. Cula verità si laude Dio. Saveso c'è che audi Dius? Che il di rosazis me pete anche a me. Po ben, al continuare il plevan. Ci ridi non passare la misure. Sì, insomma, ci rindi limitarsi e parpinitinze o disarin tre gloria patris. La conclusione fu che Tin aiuta Beppo a dire rosaris e Beppo al gambià qualità di vin. Ma dopo derin fa la comunione talindoman, pace calerin a chiase dopo de Ave Maria e di buinore e a Romai avevin fate richiadude. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.